Gioca. Tatarizzi dai. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassani so, da quattro gatti un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassani so, da quattro gatti un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so. Nacqui negli anni 70, 2006 Sardegna rappa non canta. Passai la fanta, smagorica, gioventù negli anni 80. Dentro la tribù dei sardi in domoga, Tatari ha un suono che ti cori. In questa storia cazzo diverse chiavi di lettura, ma forse l'unica plausibile, la più sicura. La duratura relazione con la gente pura ti fa stare bene, butta un seme che matura. Anni 90, scuola di vita, in strada a scuola. Senti il mio primo rap e vi le orecchie viola. La gente non sapeva che ciò sarebbe stato moda. L'hip hop era messaggio, l'assaggio divenne la mia droga. Che come piova te ti infoga e cerchi gente nuova che trova come te passione in questa cosa toga. Che in quanto si sfoga come te ti dà la prova e scova un'amicizia buona. La crew voodoo nacque allora. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so. E fu così che inizia a dipingere pezzi, coi gente dei Ibiza strappati come i grezzi. Se andavo a rotta un colpo, meriggio all'atrio aspettavo casato che Robertino e me l'avessero brecato. E nei graffiti si scriveva toi al file, si parlava poco e si faceva in battaglia di stile. Se ne volevi uscire bene c'era poco da dire, fare bozzetti, pezzi e puppet per zittire. Mai nessuno come Pelo, mago del wild style e stile. Blyer G nei puppetti, il rap al deda nei babol, che dire. Roba da uscire di gabolire, di babbo che mi sgamo montagne di Montana lire. Buttate in colore, guadagnate in calore umano. La gente hardcore è venuta fuori piano piano. FDN catecato con lo stato spento. RG21 ha fatto 100 andando in lato sul cemento. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so. Nel 94 feci il mio primo rappato con Pelo, Mister Bro e Mozza. Facemmo un contratto con un contatto col mondo un po' troppo alienato. Come combatto oggi di fatto è lì che l'ho imparato. Fu questo fatto che mi spinse a spingere liriche d'impatto. Divenni un brattamuri, sfrenzatore e rapper matto. Ricordo l'ematoma fuggendo quando mi ha sparato. Ricordo il rischio come etilico che mi ha sfiorato. Non scordo a luci ciò che ciò per me era presentato. Chi c'era al gremio a Carbonazzi ciò non l'ha scordato. SLC più head e menir più RD di poi su Dorra sopra il mic. Ogni adri. Se tu mi chiedi a veri udico no, tu non veri. Gli aperti sverbis via Venezia, gli scleri del Meri. La gente in zip, allo smile, personaggi seri. Fratelli Israele, sprena infine ai pompieri. Estate al caos, al Sarrone, o Frenzy, al CC. Sassari in azione, breccando OVS sui breakbeat. Un'ovazione per la Hall of Fame, a San B. Etro, ti porto indietro su sto film, c'è bro. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so. Io so chissà, so che chissà, sa che so. La storia pop di Sassari so, da quattro gatti a un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti, io so. So chissà, so che chissà, sa che so.